100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Ma cosa sta succedendo in Gran Bretagna dopo la Brexit? L'ennesimo passo falso riguarda in questo caso esplicitamente l'Italia. È arrivata una protesta formale dell'ambasciata d'Italia nel Regno Unito che chiede di modificare i moduli di alcune scuole della Gran Bretagna in cui ai cittadini italiani viene chiesto di indicare se si è italiani oppure italiani napoletani oppure italiani siciliani. Ora, che la penisola sia molto lunga e troppo lunga, piena di differenze, lo sappiamo e lo raccontiamo noi per primi, ma vi immaginate cosa sarebbe capitato se in Italia avessimo proposto dei moduli chiedendo agli inglesi se provenivano dalle Midlands oppure dal Kent o dalla Cornovaglia? In realtà in Gran Bretagna farebbero bene a occuparsi soprattutto della debolezza della sterlina, che ormai viene scambiata a 1,1 sull'euro e ha toccato i minimi da 31 anni a questa parte. Non si capisce come faccia in effetti l'ex governatore della Bank of England, Lord King, a ritenere una buona notizia. La Gran Bretagna, a differenza di Germania e Italia, infatti è un paese che importa molto più di quanto non esporti e importa non solo materie prime ma anche la stragrande maggioranza di tutti i generi alimentari. Ed è chiaro allora che se dovesse continuare la debolezza della sterlina, in Gran Bretagna si verificherebbe la cosiddetta inflazione importata, ossia aumentano i prezzi ma non perché crescono i salari e il potere d'acquisto, con l'effetto che ne pagherebbero le conseguenze proprio quelle aree maggiormente depresse, per esempio le Midlands, che in massa hanno votato a favore della Brexit. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Sono giorni in cui grandi marche storicamente rivali fanno accordi di pace e anche di più in nome del business del futuro. È il caso ad esempio dell'annuncio fatto da Toyota e Suzuki che costituiranno una società mista nel settore della ricerca e sviluppo, vale a dire il cuore del cuore strategico dell'attività di automotive. Sono in ballo progetti sull'ecosostenibilità, i nuovi brevetti per la sicurezza e per la creazione delle reti intelligenti decisive per disegnare il futuro della civiltà automobilistica del pianeta. Non è la prima volta che due case nemiche e avversarie uniscono in realtà le forze. È accaduto anche tra Honda e Yamaha, che hanno deciso di produrre insieme le motociclette del futuro. In particolare la Honda, che è leader nel mercato giapponese con il 43% delle vendite, produrrà i nuovi scooter elettrici anche per il suo concorrente diretto nello stabilimento di Kumamoto. Nello stesso impianto la Yamaha, che ha il 27% del mercato totale, sposterà le produzioni che oggi sono invece basate a Taiwan. È uno scambio che consentirà alle due case concorrenti di abbattere in modo consistente i costi di produzione e di rivitalizzare un mercato che cala in modo preoccupante da quelle parti. Un annuncio analogo ha fatto recentemente anche la Volkswagen, che ha anticipato un accordo con i cinesi della YAC per mettere a punto una joint venture per la produzione di vetture elettriche e low cost. È evidente che nel mondo dei motori, spesso anticipatore delle grandi tendenze dello sviluppo, arrivano segnali da cogliere. La svolta degli accordi invece delle guerre commerciali e soprattutto la leva dello sviluppo sostenibile come grande driver per la crescita potrebbero diventare davvero il nuovo paradigma per ritornare a far crescere il PIL anche in molti paesi che agonizzano allo zero virgola, francamente, come il nostro. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.